24 mattino di Alessandro Milan. Le 7:20 minuti, buongiorno, eccoci cari ascoltatori a chiudere la settimana di 24 mattino. Saluto il nostro alpino Peter Bescapeni in regia e anche Diego Rovelli là, che si affanna in redazione, si affanna poi, è lì. E allora avremo ospite Matteo Salvini oggi della Lega, eurodeputato. Le vicende di case, di lunghi coltelli anche che spuntano metaforicamente ovviamente tra leghisti. Siamo alla resa dei conti? Qualcuno ipotizza che la Lega possa addirittura spaccarsi e dividersi. Parleremo di tasse, una tassa particolare soprattutto oggi perché è un cavallo di battaglia rilanciato ieri da Filippo Facci su Libero, sarà nostro ospite. In epoca di tasse, tasse, tasse, ma perché non tassiamo la prostituzione allora? Certo, ma prima di tassarla bisognerebbe riconoscerla come una professione e un qualcosa di legalizzato in Italia, il vecchio dilemma. Ne parleremo alle 8:30, prostituzione e tasse. Ora da cosa iniziamo? Dalla lettura dei quotidiani in edicola. È venerdì 20 aprile. Intanto uno sguardo ai titoli. Il Sole 24 Ore apre sul cambio ai vertici di Confindustria. Squinzi, vale a dire il presidente designato, lotta alla burocrazia per tornare a crescere. Poi le aperture dei quotidiani sono: chi si cimenta sulla politica? Il Corriere della Sera, partiti, si riaprono i giochi, Pisanu, oltre il PDL, Casini lancia il nuovo movimento. Il Giornale, il partito degli illusi, Casini chiude l'UDC e apre una nuova bottega. Il Messaggero, PDL, lo strappo dei senatori. C'è poi il tema economico, per Repubblica, crescita ora tocca all'Europa, Monti da Napolitano. La Stampa, 5 milioni senza lavoro e 3 non lo cercano neppure. E poi il tema inchieste e casta. Casta, Libero, ai deputati paghiamo anche i massaggi. Il Fatto Quotidiano, Calderoli e Formigoni pagano sempre gli altri. L'Unità invece mette la foto di Bossi e Calderoli, la porcata, questo è il titolo. Il Secolo XIX, la casa gratis di Calderoli. Mentre per Avvenire un esercito di inattivi, sono i 3 milioni di scoraggiati in Italia che neanche cercano lavoro, mentre per Il Manifesto il titolo è guasto tecnico, il refuso, così è stato definito dal governo dei professori che ha annullato la esenzione dal ticket sanitario per i disoccupati, per poi dire appunto è stato un refuso, lo correggeremo. Io oggi voglio partire però da un reportage che trovate in a pagina 20 e 21 del Corriere della Sera. I giornali italiani raccontano sempre meno, soprattutto le vicende dall'estero. Ed è curioso che un reportage di questo genere non sia stato realizzato da due giornalisti, anche perché è un reportage dalla Corea del Nord, uno dei pochi baluardi ormai rimasti inaccessibili ai più. È il reportage di due studenti 21enni italiani della London School of Economics che sono stati invitati per un viaggio di studio dal Ministero nordcoreano delle relazioni culturali e dunque sono potuti entrare a Pyongyang e non solo. Si chiamano Giovanni Conte e Ludovico Tallarita e oggi il Corriere della Sera mette in due pagine il loro racconto che vi segnalo. Viaggio nell'ultima monarchia rossa dove operai schiavi spazzano l'asfalto. Scrivono questi due studenti: non ci sono racconti, documentari o romanzi che ti possano preparare per un viaggio in Corea del Nord. Sul volo Pechino-Pyongyang si incrociano sguardi tra estasi e apprensione. Attraversare il Mar Giallo a bordo di un ex velivolo sovietico degli anni 70 non rassicura, ma stiamo per vivere un'esperienza riservata a pochi fortunati. Già al ritiro bagagli, capiamo, siamo contornati da una quantità impressionante di uomini in divisa. Sull'autobus ci presentano i nostri accompagnatori. Oltre all'autista saremo seguiti da due guide, Mr. W e Miss Y, le presentano così, e da un cameraman. Mister W appare infastidito dalla quantità di foto che tutti stanno scattando, ci ricorda che la Corea non è un paese come gli altri nel caso non ce ne fossimo ancora resi conto. Tra gli obblighi quello di rimanere sempre in gruppo, non fotografare militari né qualsiasi cosa potesse mettere in cattiva luce il regime. E allora ecco così che inizia il racconto, dove anche comprare una bottiglietta d'acqua può rivelarsi un problema, in quanto stranieri ci è vietato entrare nei negozi comuni, maneggiare la valuta locale. Veniamo dirottati sempre verso una bottega esclusivamente per turisti. A un certo punto decidiamo addirittura di prendere un treno della metropolitana svicolando dalle nostre guide. Il tragitto è breve, ma siamo chiaramente fuori posto. Gli sguardi dei passeggeri variano tra il sorpreso e il preoccupato. Decidiamo quindi di uscire all'aria aperta, ma capiamo subito che non saremmo in grado di arrivare lontano. I taxi sono vietati agli stranieri e sono troppi gli uomini in divisa che cominciano a fissarci. E così ci riportano da Mister W. Questa nostra insubordinazione si trasforma inaspettatamente in un'occasione per poter chiacchierare in maniera più rilassata con le nostre guide. Miss Y ci confida la sua passione per il cibo, la musica italiana ci sorprende con un'improbabile interpretazione di O Sole Mio. Ci dice che in Corea del Nord è giunta l'autentica pizza italiana e la sera ci troviamo a testare una delle due pizzerie in città sorseggiando vino dei castelli romani. Poi quando andiamo fuori da Pyongyang succede addirittura un evento incredibile. Rimaniamo colpiti intanto dalle autostrade, viaggiamo su una carreggiata a 12 corsie nonostante l'assenza quasi totale di altri veicoli. All'improvviso scorgiamo un muro di persone, circa 3.000 lavoratori incaricati di spolverare il manto stradale per il nostro passaggio, muniti di piccole spazzole fatte di foglie intrecciate. Non possiamo credere ai nostri occhi. Insomma, questo stralci di questo racconto molto intenso, molto bello, che questi due studenti italiani hanno affidato al Corriere della Sera sulla Corea del Nord. Viaggio nell'ultima monarchia rossa dove operai schiavi spazzano l'asfalto. A pagina 20 e 21 del Corriere della Sera. Tornando in Italia, cose più prosaiche. Qua la casta impera. Vabbè, ma un po' c'è ancora della demagogia, eh? Un po' no. Libero ormai sta martellando prima le agendine in pelle di contribuente, poi ieri cosa c'era non lo so, la sanità, ora il titolo d'apertura di Franco Becchis e l'articolo "ai deputati paghiamo anche i massaggi, ogni anno 12 milioni per il loro benessere", Libero si chiede "è proprio necessario?". E c'è per esempio che cosa? Le terme, i massaggi, la shiatsu terapia, l'elettroscultura, i fanghi, fino a un tetto di 1.860 euro l'anno per ogni onorevole. È stata firmata una convenzione con un vicino centro sanitario privato polivalente, lo studio diagnostico Pantheon. Ovviamente Rita Bernardini, come al solito, ha chiesto di vedere il testo della convenzione. Ed ecco che è stato trasmesso appunto il testo della convenzione. Tra i servizi erogati c'è la termoterapia, la crioterapia, prezzi ribassati per i deputati per stare comodamente dentro il plafond, per una seduta di shiatsu terapia 75 euro, l'elettroscultura e balneoterapia appena 50 euro e così via. Insomma, Libero si chiede, ma è il caso davvero di fare questa assistenza integrativa di Montecitorio che prevede tutto questo? Non lo so, giudicate voi. Intanto, sempre per la vicenda dei 35 deputati, anzi 33, che chiedono di, che hanno fatto ricorso alla Camera perché gli sono state cambiate le regole per avere il vitalizio, oggi La Stampa con Jacopo Iacoboni torna su questo. Pagina 13. La lista dei 33 onorevoli, li vedrete un po' tutti. Alcuni sono stati nostri ospiti, pochi. Alcuni forse lo saranno quando vorranno. Qualcuno ci ha promesso quando ci sarà la sentenza. E ovviamente è un po' l'argomento scomodo. Titolo alla stampa è "La rivolta dei peones. Onorevoli vitalizi, toglietemi tutto ma non la pensione. Italia la casta, in 33 dicono no". Ecco chi sono. Se volete sulla stampa, pagina 33, tutti i nomi. Alle 7.35 minuti, allora, la situazione economica, lo sappiamo, è quella che è. Ieri l'Istat ha certificato con questo dato che è abbastanza sconvolgente. Trovate a pagina 15 del Sole delle 24 Ore gli inattivi attivi salgono a 3 milioni, così li certifica l'Istat. Gli inattivi, gli italiani che... Chi sono questi inattivi? Sono persone che vorrebbero lavorare, ma rinunciano a cercare un posto di lavoro. Accidenti, sono 3 volte la media europea. Possono essere definiti gli scoraggiati, quelli che non ci provano neanche più. Claudio Tucci racconta, è un esercito di quasi 3 milioni di persone, per la precisione sono 2.897.000, che vorrebbero un posto di lavoro, ma hanno smesso di cercarlo perché scoraggiati. È la statistica, quelli chiama inattivi, sono in crescita del 4,8% rispetto al 2010. Cioè 133.000 persone in più, e sono per lo più giovani e donne. Se li si somma ai 2,1 milioni di disoccupati in senso stretto, cioè quelli proprio non è che non provano, rinunciano a trovare lavoro, ma proprio non lo trovano, e ai 121.000 che cercano un impiego, il numero di persone che in Italia aspira a ottenere un impiego supera quota 5 milioni, in totale 5 milioni di italiani, di cui quasi 3 milioni appunto di inattivi. Beh, è un qualcosa abbastanza incredibile come dato. E è il giorno in cui il tema più sentito nell'agenda politica è quello della crescita. Ieri Mario Monti, il premier, è andato dal capo dello Stato Giorgio Napolitano per parlare appunto di come rilanciare la crescita. Tra l'altro anche il presidente designato di Confindustria Giorgio Squinzi, che ha presentato la squadra con i vicepresidenti ieri, ricorda Il Sole 24 Ore in prima pagina, ha detto ora appunto la crescita, e dobbiamo lavorare con questo obiettivo. Il momento difficile, ci dobbiamo impegnare al massimo per tornare alla crescita, così ha detto Squinzi, puntando l'accento sulla lotta alla burocrazia come uno dei primi aspetti per cercare di rilanciare appunto il paese. Tra l'altro interessante la retroscena di Francesco Bei su Repubblica dell'incontro appunto tra Napolitano e Monti. Napolitano chiama Monti: ora l'Europa ci deve aiutare a rilanciare la ripresa. È un incontro che doveva essere di prassi, quello di ieri, dedicato all'illustrazione del documento di economia e finanza e il programma di riforme approvato dal Consiglio dei Ministri, ma certo si è parlato molto in questo incontro di routine, che è diventato un vero e proprio vertice d'emergenza, racconta Repubblica, cioè cercare di capire come rilanciare l'economia. Il premier Mario Monti ha telefonato anche il segretario al tesoro americano Geithner, che ha assicurato il sostegno degli Stati Uniti. C'è anche una coda in questo retroscena politico di Francesco Bei su Repubblica, una coda un po' curiosa, dicendo, quando Bei scrive questo, a Palazzo Chigi la situazione non è facile, appunto perché non si capisce come rilanciare la crescita, si chiede aiuto ai partiti, ma la tensione nei partiti è altissima. Sentite che cosa è successo all'interno del PDL in una riunione. Ieri si è sfiorata la rissa, racconta Francesco Bei. Alfano aveva convocato una riunione con gli ex ministri del governo Berlusconi per parlare dei provvedimenti economici del governo e della crescita, in assenza però del segretario. La riunione era presieduta da Brunetta, che per l'ex ministro La Russa evidentemente la stava tirando troppo per le lunghe. Allora i due hanno iniziato a battibeccare, finché l'ex ministro della difesa La Russa si è alzato, è andato verso Brunetta e gli ha tirato 2 schiaffi in testa, lasciandolo senza parole. Brunetta se l'è presa, ha abbandonato la sala. Ecco qui, la riunione sulla crescita all'interno del Popolo della Libertà è finita così. Tra l'altro, sulla maggiore incisività dell'azione del governo, oggi c'è anche un'intervista a Marina Berlusconi, presidente di Mondadori, una delle figlie di Silvio Berlusconi. Ieri parlava invece Pier Silvio Berlusconi sulla questione Mediaset e Frequenze TV in un'intervista a Repubblica. Oggi sulla Stampa Luca Ubaldeschi intervista Marina Berlusconi, che vabbè, intanto ce l'ha ancora con la questione, proprio non le è andata giù, di De Benedetti, no? Le cose che mi tolgono serenità sono l'esproprio da 564 milioni di euro costretti a pagare al gruppo De Benedetti, una sentenza che non sta né in cielo né in terra, contro la quale abbiamo rifatto ricorso, e la Cassazione non potrà non riconoscere le nostre ragioni. Accusa De Benedetti, sono 20 anni che ci viene rinfacciata l'accusa del conflitto di interessi, ma il conflitto di interessi ha giocato semmai a nostro sfavore. dice Marina Berlusconi. Lo sa che le azioni Mediaset hanno raggiunto il massimo valore quando a Palazzo Chigi c'era D'Alema e risultati record quando governava Prodi nel 2006? Poi venendo alla questione Monti, dice: il mio giudizio da imprenditore è la manovra della fase 1 per l'85% è stata caratterizzata da un incremento delle imposte. Ho apprezzato la riforma delle pensioni già avviata dal governo di mio padre, ma l'insieme degli interventi ha avuto un effetto fortemente recessivo, forse inevitabile ma pesante. Successivamente avrebbe dovuto arrivare la fase della crescita, ma cosa abbiamo visto? I provvedimenti su liberalizzazioni e semplificazioni sono stati molto enfatizzati, ma nella realtà hanno avuto un impatto limitato, se non nullo. Insomma, chiede Ubaldeschi, il governo è bocciato, non sta a me né promuovere né bocciare. E comunque non vorrei essere fraintesa, questo esecutivo deve continuare a governare e auguriamoci tutti che lo faccia in modo più incisivo rispetto a oggi. Dunque, il nodo crescita anche per la presidente di Mondadori. Intanto la politica si muove. Voi forse, cari ascoltatori, non ve ne siete accorti, non lo so. Beh, certo c'è Beppe Grillo, che è politica. Oggi l'Espresso dedica la prima pagina a Beppe Grillo, il titolo è La carica dei 101, cioè i 101 candidati nelle varie liste del Movimento 5 Stelle, ma la politica si muove anche nei partiti tradizionali, forse perché hanno capito che così la credibilità dei partiti è a livello bassissimo. E il primo movimento è Pier Ferdinando Casini, sicuramente, ha annunciato che nascerà il Partito della Nazione. Oggi stesso Casini azzererà tutti i vertici dell'UDC e partirà questa nuova avventura politica, nuova, poi insomma, bisogna vedere quanto sarà nuova, è questo che, su cui si interrogano molti commentatori politici. Comunque Pier Ferdinando Casini è colui che si sta più muovendo. Ministri tecnici e società civile, così Casini scardina i poli. Questo è il titolo di Repubblica, pagina 7. Berlusconi è spiazzato dal blitz. Libero si spinge oltre facendo anche i nomi delle personalità che Casini starebbe contattando per un futuro partito della nazione. Casini fa shopping, Passera e Marcegaglia. Il centrista è il principale sponsor del governo, effettivamente il ministro Corrado Passera è quello su cui si concentrano più le attenzioni, a dire che cosa farà nel 2013 dopo la fine dell'esperienza del governo Monti, sempre che arrivi nel 2013, perché guardate che cosa è attribuito a Berlusconi sul Corriere della Sera a pagina 3. Si rischia il voto a ottobre, Berlusconi è persuaso che per volontà del PD finirà così. Secondo Berlusconi, per il PD è l'ultimo treno per vincere le elezioni e respingere l'assalto dell'antipolitica alla Grillo. Per Monti è la via d'uscita dall'impasse di un governo in difficoltà che gli permetterebbe di far valere in altri ruoli, anche internazionali, il credito acquisito. Per il PDL è in fondo l'ultima occasione per mantenere un'unità interna sempre più a rischio, tanto che un fedelissimo dice: noi non dobbiamo andare a votare per vincere ma per continuare ad esistere, perché se continua così verremo spazzati via. Insomma, tutto questo fa pensare a Berlusconi che si andrà a votare a ottobre. Sta di fatto che Casini, appunto, si sta muovendo molto. Anche per il Corriere, Casini dall'UDC al Partito della Nazione e anche Future Libertà apre ai ministri tecnici, e così c'è anche la fronda di 29 deputati, senatori per la verità, che dicono subito: non è una fronda, non è una corrente, ma capeggiati da Pisanu, che già alla fine del governo Berlusconi aveva manifestato diversi mal di pancia sulla necessità di cambiare. Eccolo qui lo strappo di Pisanu, andare oltre il PDL, 29 senatori nella pattuglia Filomonti. C'è Lamberto Dini, c'è Ombretta Colli, c'è anche Diana De Feo, la moglie di Emilio Fede. E il giornale è molto duro, Pisanu riprova la fronda anti-CAV, firmano in 29 ma molti si pentono, e Alfano ironizza: se vuole aiutarci faccia pure. C'è l'elenco dei 29 parlamentari che hanno aderito. Insomma, si muove moltissimo, tanto dal punto di vista delle logiche parlamentari, delle logiche partitiche, si forma un nuovo partito, quello del Partito della Nazione di Casini, e c'è questo strappo o non strappo di Pisanu. Ciò che non si muove sono i rimborsi elettorali, quelli sono lì, fermi, cristallizzati. Volete sapere che fine farà la proposta di legge Alfano Bersani Casini, quella che doveva rivoluzionare, almeno dal punto di vista della trasparenza, i rimborsi ai partiti? Allora, la legge che doveva rivoluzionare, almeno dal punto di vista della trasparenza, il tema dei rimborsi elettorali, è già su un binario morto. Corriere della Sera, pagina 6, Dino Martirano: la Cassazione smonta la legge di PDL, PD e UDC. Il primo magistrato d'Italia, pezzo dopo pezzo, ha smontato la proposta di legge Alfano Bersani Casini, che mira ad affidare anche alla Cassazione il compito di controllare scrupolosamente i bilanci dei partiti. Praticamente il primo magistrato presidente della Corte di Cassazione, Ernesto Lupo, ha preso carta e penna, visto che nella legge c'è la proposta controlli i bilanci dei partiti, caro presidente di Cassazione. Ha preso carta e penna e ha scritto: sotto l'aspetto pratico devo rilevare che alla mia carica l'ordinamento già imputa molteplici funzioni che non lasciano tempo sufficiente per assolvere idoneamente altri compiti. Avete capito, il presidente della Corte di Cassazione dice: non spetta a me, non ho tempo e quindi niente. Peraltro già la Lega aveva fermato la corsia preferenziale, già l'ufficio studi della Camera aveva messo in discussione il calendario della commissione, perché non si può mica discutere prima dei controlli, quindi del testo ABC e poi della natura giuridica dei partiti. Poi è arrivata la lettera del presidente della Corte di Cassazione, il risultato, diciamo, che questa legge è già morta e neanche era nata, è quella che doveva rivoluzionare tutto. Per quel che riguarda le inchieste, trovate la vicenda Lega, e ciò che impera è la notizia che la Lega pagava l'affitto per l'appartamento di Calderoli a Roma. Calderoli fa una sola intervista al Corriere della Sera ad Anna Gandolfi, a pagina 17, molto sdegnato: ho appena parlato con Maroni, il problema non esiste, concordiamo, salvo che questa vicenda mi ha fatto un male pazzesco. È una casa utilizzata da un anno e mezzo come ufficio di lavoro per il partito e dunque era pagato dal partito. Per Bossi chi paga la casa Roma non lo so, risponde Maroni. Sono pronto a spiegare tutto anche ai militanti della Lega. Sulla domanda ha mai valutato un passo indietro su questo? 10 minuti dopo la mia nomina, risponde Calderoli, è uscita l'intercettazione in cui Belsito parla di soldi al CALD. Ho detto a Bossi, al Consiglio federale, mi dimetto in attesa che si faccia la chiarezza. Loro hanno rifiutato. Insomma, ne parleremo con Matteo Salvini. La casa di Calderoli, questo è il tema. Come il tema altro delle inchieste è la vicenda Formigoni. Ieri ha fatto scalpore questa lettera che la moglie dell'ex assessore Simone, assessore alla sanità, che è stato arrestato, ha mandato al Corriere della Sera, dicendo: quando ho letto che Formigoni dice con Daccò, Pierangelo Daccò, non ho avuto praticamente alcun tipo di rapporto, l'ha detto anche ai nostri microfoni un po' di tempo fa, sono trasalita, insomma, invece era il cagnolino al guinzaglio di Daccò. Oggi questa signora fa due interviste al Corriere Repubblica, che si chiama Carla Vites, è la moglie di Antonio Simone, intervistata dal Corriere della Sera da Andrea Galli a pagina 19, dice: guardi, ho voluto scrivere questa lettera perché lo ritenevo giusto e se vuole ripeto queste cose. Alle cene con Daccò e Formigoni c'erano molti politici, cardinali, non faccio i nomi per carità, ma dice: io sono più che delusa, arrabbiata, ritengo Formigoni troppo intelligente per frequentare uno come Daccò, un faccendiere che fa il suo lavoro, veniva agli incontri di CL. Formigoni ha il tipico complesso di inferiorità del cattolico, ha bisogno di qualcuno che gli organizzi viaggi, vacanze, momenti di svago e feste in mezzo mondo. Attenzione, ho detto feste, non festini, come alcuni suoi colleghi hanno cercato di farmi dire. Insomma, dice, ha parlato anche per rabbia e soprattutto ora in questa intervista ce l'ha con Pierangelo Daccò. Anche a Repubblica parla, come l'altra inchiesta è quella di La Vitola, che effettivamente in un verbale ha detto i 5 milioni a Berlusconi è vero, glieli ho chiesti, ma non è un ricatto, ero un aiutino. Volevo un aiutino. Un aiutino. Ha chiesto 5 milioni di euro a Silvio Berlusconi. Mi doveva fare questo aiutino perché so che lui è generoso. Così ha detto Walter La Vitola, tanto che il Secolo XIX titola proprio così. Pagina 6. La Vitola. Volevo solo un aiutino. Intanto zitti zitti, quatti quatti, con questo concludo. Mi sono chiesto, ma perché l'Agenzia delle Entrate vuole l'elenco di tutti i telefoni? Il fisco chiede i numeri, questo è il titolo di apertura di Italia Oggi, nell'anagrafe tributaria, tutti i numeri delle utenze telefoniche fisse e mobili. Per ora si faceva solo per quelle business, ora invece, secondo quanto ha disposto Attilio Befera, direttore dell'Agenzia delle Entrate, vanno comunicate all'anagrafe tributaria tutti i contratti di telefonia fissa e mobile. Ma che se ne fa il fisco della mega rubrica italiana? Ma vi lascio con questa domanda. 24 mattino. Eccoci qua, ben ritrovati da Alessandro Milan, sono le 8:22 minuti. Allora la Lega, allora ancora polemiche sulla Lega, adesso c'è questa casa affittata e pagata con i soldi della Lega a uno dei tre triumviri, Calderoli, a Roma. Ne parliamo con Matteo Salvini, buongiorno, ben ritrovato Salvini, eccoci. Buongiorno a chi ci ascolta. Eurodeputato leghista, è una storia tirata per i capelli oppure c'è anche questa di storia? È uno scandalo che Calderoli si faccia pagare l'affitto dal partito? Ma guardi, noi in 10 giorni stiamo cercando di fare pulizia come mai in precedenza, con dimissioni, espulsioni, restituzioni di denaro, di diamanti, di lingotti. Evidentemente avevamo riposto fiducia in gente sbagliata e stiamo facendo pagare, stiamo pagando e pagheremo anche noi elettoralmente. Adesso però mi sembra veramente che si stiano raggiungendo livelli di paranoia o di farsa, nel senso che se qualcuno ha usato male i soldi del movimento e dei militanti ne risponderà. Ma che ci sia la Lega nel mirino in un momento in cui in Italia, ahimè, la situazione economica è disastrosa, vedremo. Calderoli, se pagava o non pagava l'affitto, con i soldi fuori, con i soldi della Lega. No, oggi lui al Corriere della Sera dice era un ufficio decentrato del mio ministero, quindi ha ammesso insomma che è pagato dal partito, ma dice appunto è una cosa assurda. Ma paranoia e farsa da parte di chi? Cioè una campagna di stampa, pensa, i magistrati? Da parte di chi investiga, delle procure che lasciano queste notizie, dei giornali che le pubblicano. Può far incazzare i militanti, nel senso che posso arrabbiarmi io come militante, o può arrabbiarsi chi ci mette i 20 euro per aprire la sezione a Vicenza e dice ma è opportuno che si paghi un ufficio a Roma, però visto che di penalmente rilevante in questi 10 giorni c'è il comportamento del tesoriere, punto, che è stato espulso, punto. Tutto il resto è una gestione interna del movimento che è sbagliata, su cui abbiamo sbagliato e su cui pagheremo, che però da 10 giorni non si parli del prezzo della benzina, che è folle, che al di là del bene e del male, di una situazione economica disastrosa, e si insegua Salvini, se si mette le dita nel naso, se sputa per terra, siamo veramente alla paranoia, che mi viene il dubbio a questo punto, non che ci sia un complotto, ma un po' di accanimento. Però altro, come dobbiamo commentare Salvini l'uscita di Bossi, che ieri ha detto non ci sono reati e poi sono soldi del partito, quindi arrivati al partito col finanziamento, tutto lecito. I partiti, se vuole il partito li può anche buttare dalla finestra sti soldi e nessuno deve metterci becco, perché sono soldi. Ma su questo, sul fatto che moralmente vada usato bene ogni centesimo di euro che arriva dal finanziamento pubblico, dal contribuente italiano, dal militante o dall'elettore della Lega, su questo è assolutamente vero, e chi critica la Lega ha assolutamente ragione. Se non c'è reato, fa niente, ma bisogna in un momento di crisi economica essere assolutamente rispettosi e usare bene ogni centesimo di euro. Detto questo, ripeto, in un momento, ahimè, dove ci sono decine di suicidi perché la situazione economica è al collasso e dal nostro punto di vista l'azione del governo Monti non fa che aggravare la situazione, che si faccia un processo che neanche alla camorra o alla mafia è stato fatto da 15 giorni alla Lega, qualche dubbio lo fa venire. Detto questo, abbiamo sbagliato, E pagheremo per gli errori fatti. No, perché uno dice, dopo che per anni dice siamo diversi, è chiaro che quando emergono queste cose i giornali fanno il loro lavoro, ma parlano anche della benzina, parlano anche però perché ne escono ogni giorno una nuova. C'è anche questa del dossier, per esempio, interno, con Belsito pare che spiasse Maroni, cioè è come franato tutto il castello di carte dell'unità del partito, ecco, in 10 giorni. No, ma guardi, qua c'era un personaggio su cui non abbiamo vigilato, e questa è colpa nostra. È come quando purtroppo capita ogni tanto l'amministratore del condominio, che tu stimi, ti sembra una persona per bene, scappa con i 2 milioni di euro e lascia in braghe di tela i condomini, che dovevano stare più attenti. Qua c'è un tesoriere che comprava diamanti, comprava lingotti, faceva spiare ministri, parlamentari, sindaci. E abbiamo sottovalutato l'agire di questo personaggio, evidentemente, ma i primi a essere parte lesa appunto sono i leghisti. Ma è solo un personaggio, è solo un personaggio, perché guardi, ieri non è che voglio una battuta di Storace. Lui è chi l'abbia appoggiato. Sì, certo, una battuta di Storace è stata questa: tra un po' i leghisti si spareranno per le strade, cioè i politici. Cioè no, è un po' tutto. Guardi, ieri Reguzzoni è stato attaccato da Pini, è stato ripreso dal capogruppo, cioè è un momento un po' di fermento. Sto girando in lungo e in largo per le elezioni amministrative che ci saranno il 6 maggio, dal Piemonte alla Liguria, all'Emilia, al Veneto, e trovo un sacco di gente motivata e per bene, che è la prima a essere arrabbiata perché il nome della Lega e il loro lavoro è infangato da queste 1, 2, 4, 5, 15, 20, non so quante persone che prenderemo personalmente e cacceremo personalmente. Detto questo, io non so cosa uscirà domani, se qualcuno non ha pagato il biglietto del tram, o se qualcuno ha messo la macchina in sosta vietata. Vabbè, questo, però, chi vivrà vedrà. No, ma intanto ma io lo confesso, io ho preso 5 multe per l'Ecopass, le pagherò, comunque non con i soldi del partito, e mi pagherò le mie multe. Che però, ripeto, ci sia contro l'unica forza di opposizione un accanimento quantomeno strano, ecco, che ci siano 8 procure al lavoro su reati al momento attuale che riguardano un tesoriere espulso, è cosa bizzarra. Le chiedo questo: lei, il sindacato padano, questo SIMPA di cui presidente Rosi Mauro, ha capito cos'è, quanto ne è la forza, quanti sono gli iscritti, che attività fa? Ci ho provato a lavorare più di una volta perché, ripeto, facendo consigliere comunale a Milano, ad esempio, ci sono tanti lavoratori dell'ATM, della SEA, dello stesso comune di Milano, che hanno motivi più che validi per arrabbiarsi e per protestare. Onestamente non ho mai trovato tanti riscontri. Secondo me in futuro potrà essere condotto in maniera più efficace, sempre che se ne vada Rosi Mauro, perché è ancora presidente, non intende, cioè che avete contro Rosi Mauro? Perché a parte il fatto non ha obbedito all'ordine di lasciare la vicepresidenza della Camera, però adesso dice poco. Insomma, se non siamo in una bocciofila, siamo in un movimento, se un movimento appunto per errori da dimostrare, però ritiene che Salvini si debba dimettere, Salvini domani si dimette, non è che dice no, non c'ho voglia. E come se ne esce quindi? Lei rimane a capo del sindacato padano e che fate? Mica la prenderete a calci e la butterete fuori? Ma guardi, visto che purtroppo non mi sembra abbia centinaia di migliaia di iscritti, non è questo il problema. Il problema è fare delle proposte serie e alternative per cercare di sostituire l'IMU e per cercare di evitare di alzare l'IVA, che sono il disastro incombente. Sul sindacato padano ci penseremo. Mi dia una battuta su questo da consigliere comunale: qual è Pisapia, il sindaco ha deciso e ha detto il 25 aprile, per commemorare questa importante ricorrenza, i negozi dovrebbero rimanere tutti chiusi, devono rimanere tutti chiusi. Che ne è un giorno infrasettimanale, martedì credo, che ne pensa? O giovedì? Io penso che vada lasciata la libertà al singolo di decidere se e che cosa fare. Mi sembra che però non possano essere usati due pesi e due misure, se per le festività cattoliche si dice che devono essere liberi il 25 aprile, chi vorrà festeggiare San Marco e starà chiuso lo farà, chi vorrà rimanere aperto potrà farlo. San Marco, che c'entra? Non l'ho capito. È la festa di San Marco. Il 25 aprile è San Marco. Festeggia la liberazione, ovviamente. Perché non ho il calendario dei santi. Sì, certo, io non ho il calendario dei santi così, però il 25 aprile mi ricordavo che fosse un'altra cosa. Mi ricordo San Matteo il 21 settembre e San Marco il 25. Vabbè, e Sant'Alessandro il 26 agosto, però voglio dire San Marco il 25. Per lei è San Marco il 25 aprile. No, scherzo, è la festa della liberazione, però siccome la sinistra strumentalizza, la liberazione non fu fatta solo da comunisti, fu fatta da tanta altra gente. E questo che c'entra? Questo va bene, cioè, però per lei è la festa della liberazione il 25 aprile. Sì. È la festa di San Marco e della liberazione. Va bene, grazie, buona giornata a Matteo Salvini, eurodeputato della Lega. Noi, a proposito di tasse, che pare un cavallo di battaglia del governo Monti, ma non solo, del governo Monti per carità, vogliamo tornare su un grande tema rilanciato ieri da Filippo Facci su Libero con il seguente proposito: ma perché non tassiamo allora la prostituzione, visto che in Italia ci sono tante persone che esercitano la prostituzione e tanti clienti che usufruiscono della prostituzione? Solo che per tassare un qualcosa bisogna prima renderlo, legalizzarlo e quindi riconoscerlo come professione. È una via fattibile, se ne discute da decenni, dalla legge Merlino. 24 mattino 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta. Le tasse, una cosa bellissima, ricordate Padoa Schioppa? A dirlo oggi io vi vedo già con i pugni sul volante tesi e il cruscotto che traballa. Ma insomma, è il tema delle tasse, visto che è molto sentito in questi giorni. Ieri Filippo Facci su Libero è tornato, prendendo spunto per la verità da una constatazione dell'onorevole Alessandra Mussolini, che ha detto con il governo Monti ora ci sono rischio di più giovani che si devono buttare, imbracciare la strada della prostituzione, visto che sono in difficoltà economica. Allora Filippo Facci ha detto: attenzione, perché guardate che se Monti, al faro dell'Europa come ha sempre davanti a sé, guardate che fa come in Europa. In Germania, per esempio, ci sono le prostitute legalizzate, in Svizzera pure e in altri paesi anche. E allora attenzione, tassare la prostituzione perché non può essere una via? Certo, prima bisogna rendere legalizzare questa professione. Filippo Facci, buongiorno, eccoci qua. Buongiorno a tutti. Saluto con lei anche Carlo Casini, che è eurodeputato, ci è venuto a ritrovare. Buongiorno onorevole Casini, europarlamentare dell'UDC, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Carlo Casini, tra l'altro, ex magistrato, è stato anche il fondatore del Movimento per la Vita, nella sua biografia ha fatto tante cose. Filippo Facci, allora, che cos'è? Una questione di ipocrisia, di falsa moralità o presunta moralità o giusta moralità, quella di non voler affrontare questo tema del tassare anche la prostituzione? Detto così va benissimo, quindi lo faccio mio. Io partivo in effetti da una battuta di Alessandra Mussolini, battuta preoccupata perché segnalava che c'era un aumento della prostituzione studentesca e giovanile sulla base di alcuni dati, e lei diceva con Monti ci sono più prostitute, no? E vabbè, a parte la battuta che viene da fare, che insomma è difficile credere che ci siano più prostitute che col governo Monti che col governo Berlusconi, appunto, in effetti la Mussolini forse deve stare attenta a non svegliare il can che dorme, perché se l'Europa è il vero riferimento di Monti, in Europa non mancano, per esempio nella mitica Germania, nazioni dove la prostituzione è legalizzata, oltre che è legale, e nel senso è regolamentata, e quindi c'è una professione e vengono pagate perciò le tasse, anche salate a quanto pare. Insomma, se c'è questa branca del terziario che pare irrinunciabile per tanti eletti ed elettori, a questo punto ci sono cose molto più immorali, come lo scudo fiscale, visto che tratta di soldi illegali che devono rientrare in Italia, quando invece noi non vogliamo tassare i soldi che sono legali. Io ho sintetizzato tutto in una battuta, che ci si deve chiedere se sia più immorale che una prostituta paghi le tasse oppure che non le paghi. Questo è il problema, quello è il termine della questione, secondo lei. Non tanto, perché il resto che cos'è? Ipocrisia? Il resto che cos'è? È non volontà politica? Cioè, perché non lo si fa in Italia, secondo lei? Ma è semplicissimo, non lo si fa perché è 54 anni che dalla fine della legge Merlin si rifiuta di regolamentare qualche cosa che non è illegale, perché in Italia la prostituzione non è illegale ma non è ancora legalizzata, significa che appunto non ci sono delle regole che appunto, per esempio, permettano alle prostitute di pagare le tasse. chiarisco che secondo me, perché io vorrei chiarire che sono favorevole a questo, che non si tratta della prostituzione secondo una certa icona che abbiamo in mente, nel senso che non tanto quella per strada, appunto, che molti riconducono a un vero problema o etico o di arredo urbano, bensì quella che oggi viene esercitata in maggioranza, che è quella tra le quattro mura di casa, insomma, e attenzione, c'è anche il problema nei reati. No, esatto. Un'altra cosa, perché l'aspetto dello sfruttamento, questa è un crimine, la prostituzione minorile, la messa in schiavitù e tutte quelle cose lì sono un problema di ordine pubblico da punire, e non viene assolutamente messo in discussione. E questo insomma, già il codice penale ovviamente punisce lo sfruttamento della prostituzione e tutti i reati connessi. Su questo non c'è dubbio. Infatti vogliamo discuterne, onorevole Casini, sgombrando il campo da questo equivoco, cioè parliamo di persone che in libertà, come scelta libera, decidono di prostituirsi. Ce ne sono, secondo alcune stime, alcune centinaia di migliaia in Italia, secondo alcune stime il giro d'affari è tra i 5 e gli 8 miliardi in Italia, li ho presi da alcuni articoli del passato. E allora, onorevole Casini, perché non si può arrivare a pensare a una legalizzazione del fenomeno? Ma io distinguerei i vari piani. Quanto al problema fiscale, io credo che tutti debbano pagare tasse qualunque cosa facciano, quindi questo è fuori discussione. Mica puoi mettere fattura a una prostituta, però. Come? Mica puoi mettere fattura a una prostituta, scusi. Beh, ci sono altri modi. Il fisco può accettare i redditi delle persone, sta mettendo sotto controllo tutto in questo momento per vedere quanti incassi, e ci può poco a vedere attraverso un'azione più specifica in questo settore. Ma quello che voglio dire, semmai, è che io, quando ero magistrato del pubblico ministero, mi ero occupato in modo particolare dei reati attinenti alla prostituzione, e devo dire che di donne libere, veramente libere, non soltanto dal punto di vista fisico ma anche di vista psicologico, di esercitare la prostituzione non ne ho conosciute. In generale c'è sempre dietro uno sfruttatore, un favoreggiatore, non uno, molti, la stessa società nel suo insieme. Allora qui bisogna capire bene qual è l'atteggiamento complessivo rispetto alla prostituzione. Se la prostituzione è un fatto assolutamente neutrale dal punto di vista del bene comune, allora non si capisce perché debba essere proibita. Ma se, come oggi avviene, lo si ritiene un fatto negativo, ma non si vuol colpire la prostituta, ma tutto ciò che ci sta intorno, cioè lo sfruttamento, il favoreggiamento, l'addescamento, allora la cosa è simile a quella della droga. La droga non è che è punito il consumatore, ma tutto ciò che ci sta intorno si cerca di impedirlo. Sì. Quindi, voglio dire, a rigore, se dovessi fare un discorso di rigore giuridico, io dovrei dire che, come al consumatore di droga, se gli si trova delle sostanze stupefacenti addosso, ma sono sue e non viene punito, le vengono confiscate, analogamente tutti gli incassi della prostituzione, se guardassimo le cose con rigore giuridico, dovrebbero essere confiscate. Accidenti. Oggi la prostituzione, c'è una prostituzione nuova. Ma infatti la questione è, non sono cambiati i tempi, voglio dire, ci sono persone che credo liberamente svolgano questo esercizio. Lei le persone che ha conosciuto non ha trovato una donna libera, però... Nella stragrande maggioranza dei casi c'è qualcosa dietro, possono essere il marito, il compagno, l'ambiente, ma poi c'è una prostituzione nuova, che è completamente nuova, che è indotta da questa società dei consumi super industrializzata, che induce i bisogni. Ma voglio dire, ma quando io leggo su tutti i giornali gli annunci paraeconomici in cui si offrono prostituzione, ma è favoreggiamento o non è favoreggiamento della prostituzione? Ma magari è una persona che liberamente fa questo e investe un po' del suo capitale che guadagna con le prestazioni per fare degli annunci, banalmente. No? Sì, e il giornale fa il favoreggiatore, non c'è dubbio, sta favorendo qualche cosa. Ah beh sì, dal punto di vista del giornale. Allora, alle 8:47 minuti, Filippo Facci, qui la questione è questa. L'eurodeputato Carlo Casini dice: per sue esperienze ho conosciuto soprattutto donne sfruttate, non libere. Però la questione posta così, cioè noi siamo sicuri, Facci, che in Germania tutte le donne, uomini, chi si prostituisce in maniera legale, legalizzata, sia libero di farlo? Non sia magari sfruttato? Ma non siamo sicuri di niente a questo mondo, però come posso dire, io credo che sinceramente, la mia opinione è suffragata da qualche dato, è che la visione un pochino che ho sentito ora sia un po' datata quantomeno. Nell'ultimo decennio, soprattutto grazie all'esistenza di internet, la maggior parte delle prostitute non solo non esercita in strada, ma esercita autonomamente, senza cosiddetti protettori o coercitori, non so come chiamarli, e lo fanno volontariamente, si può dire in maniera indotta dalla società dei consumi. Sì, anche il lavoro è qualcosa di indotto da questo punto di vista, perché per alcune è un lavoro magari gradevole, sgradevole, temporaneo, però è, di fatto è un lavoro. Il sospetto che ci possa essere dietro uno sfruttamento, beh, può esserci sempre, però la legalizzazione, visto che, ripeto, non è illegale in sé la prostituzione, può essere un modo proprio di andare a vedere, di andare a controllare, insomma. Di far emergere un fenomeno sommerso, diciamo. Sì, per il resto chiariamo per informazione che in Europa ci sono molti livelli di regolamentazione, cioè ci sono i paesi, e paradossalmente alcuni sono quelli che abbiamo sempre ritenuto più disinvolti dal punto di vista sessuale, che vietano la prostituzione e puniscono pure i clienti, che sono per esempio la Svezia, la Norvegia. E nelle nostre stesse condizioni, cioè di paese che per cui non è illegale ma non è regolamentata, insomma, la prostituzione, c'è la Francia, c'è la Spagna, il Portogallo, la Polonia, l'Inghilterra. E ce ne sono però altre, sono quasi tutte a est, paradossalmente. Dico paradossalmente perché moltissime prostitute da est vengono in Italia a fare lavoro. E a est invece ci sono la maggior parte dei luoghi dove è punito sia il cliente che la prostituta. Sì, ci sono molti livelli, e il nostro è un pochino il più quello che non vuole vedere, quello che non vuole vedere, che dice il fenomeno c'è ma non facciamo finta che non ci sia, oppure non lo vogliamo affrontare, ecco, in qualche modo. Io vorrei sentire Walter da Treviso, che ci ha chiamato all'800 24 00 24. Walter, buongiorno. Sì, buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Il mio intervento era duplice, in un certo senso. Io sono cristiano cattolico, sono credente, praticante, però sono d'accordo sulla legalizzazione della prostituzione, in quanto la prostituzione esiste, c'è. Sono in contrasto queste due cose che lei dice di se stesso? Sono cattolico, cristiano, ma sono favorevole? Perché ha tenuto a precisarlo? Perché da una parte c'è la parte morale, la mia parte morale, che mi dice che non, la prostituzione non dovrebbe esistere, non dovrebbe esserci, per la morale, chiamiamola così. Sì. Dall'altra parte la prostituzione esiste, non si può nascondere, c'è, per cui dobbiamo legalizzarla, dobbiamo mettere delle leggi ben precise che vada a regolamentare quello che è lo sfruttamento, la prostituzione e quant'altro, le case chiuse o quello che potrebbe. Ci sono, vabbè, è interessante. Da un'altra parte, sì, però c'è la parte economica, visto che siamo in una situazione molto difficile, perché non sfruttare anche questa situazione? Appunto, per fare cassa. Per fare cassa. Il titolo di ieri del commento di Facci era battere cassa, ecco, c'era anche questo sottile riferimento. Qualcuno ha fatto sempre le stime che ho letto, e le ripeto, potrebbero esserci con un giro d'affari di 5-8 miliardi di euro, insomma, applicando delle tasse si potrebbero recuperare un po' di soldini. Onorevole Casini, sono in conflitto, prima Walter da Treviso ha voluto precisare, sono cattolico, cristiano, praticante, ma favorevole alla legalizzazione. Secondo lei sono in conflitto questi due aspetti? Stabiliamo intanto un punto fermo, l'abbiamo già detto e lo ripeto, le tasse le devono pagare tutti e ci sono molti modi per accertare i redditi delle persone. Adesso vai in farmacia e devi dichiarare la tua fascia di reddito, ti domandano che macchina possiedi, ti domandano che viaggio hai fatto. Quindi, voglio dire, sì, però ma sono state fatte persone, anche prostitute, che sono state prese dicendo, dichiaravano poco e avevano macchinoni, case, eccetera, però la prestazione in sé, onorevole Casini, se io vado da una prostituta, pago in nero e basta e finisce lì, cioè questa è una dazione di denaro in nero, non, certo. Non è che si può... nero, purtroppo si paga in nero da molte parti, il problema secondo me il problema è un altro. Io isolerei il problema del fisco dal problema più vasto, allora concentriamoci su quello morale. Secondo lei c'è un problema morale di affrontare il tema? Beh, morale c'è di sicuro, ma io mi vorrei occupare, dato che si parla di legge e di Stato, dei problemi civili, di bene comune. Allora, qui c'è una grande questione che già fu affrontata all'epoca della legge Merlin, quanti dibattiti ci furono allora. cioè se il fatto della prostituzione in sé per la società civile è un bene o un male, se sia meglio che ci siano le case di prostituzione oppure se per gli interessi collettivi, per il bene, dicevano, della famiglia, per la stessa libertà delle donne, sia meglio che non ci siano queste case di prostituzione, che effettivamente mi dicono, io allora non esercitavo nessuna funzione giudiziaria, però dicono gli esperti, mi dicevano gli esperti, guardi che veramente queste donne sono ridotte in schiavitù. Ma io porrei il problema, mi consenta, su un altro punto, perché giustamente il mio interlocutore ha detto le donne poi diventano libere ma sono indotte. Allora, parliamo dell'induzione. Cioè l'induzione può essere naturalmente una induzione fisica, violenta. Sì, e quella è punita dal codice penale, la escludiamo. E nessuno la vuole, quindi su questo siamo d'accordo. Ma c'è anche un'induzione psicologica che deriva dal fatto che su tutta questa questione della sessualità c'è una visione così banale, egoistica, individualizzante, che dimentica i valori straordinari che stanno a presidio della dimensione sessuale dell'uomo. Ho capito, ma che dovremmo fare? Uno stato etico che insegna la moralità pubblica? Ma uno stato etico è quello che dice non devi rubare, non devi portare i capitali all'estero, bisogna aiutare quelli del terzo mondo. E poi non devi sfruttare il tuo corpo, si può continuare anche su questa linea. Sì, no, ma voglio dire, qui difatti la prostituzione, guardi, se lei mi chiede che cosa farebbe lei circa una legalizzazione della prostituzione, no, capisco che il problema è serio e bisognerebbe approfondire le cose, però il punto di fondo è questo, la prostituzione non è un bene, non è un mestiere come tutti gli altri, è un fatto negativo, prima di tutto per la donna, che mercifica il suo corpo, che vende il suo corpo, e non è questo conforme alla dignità della donna, questo lo dicono tutti. Allora se c'è questo giudizio di disvalore bisogna che in qualche modo sia segnalato, perché viceversa l'insistenza, come si fa continuamente, specialmente sui mezzi di comunicazione di tutti i tipi, per dire il contrario, è una forma di induzione. No, allora, questo è interessante, no, io mi fermo qui, ma su questo tema torneremo. Lei ci tiene a dire che la prostituzione non è un valore, e questo deve essere chiaro a tutti. La ringrazio onorevole Carlo Casini e Filippo Facci di Libero. Ci fermiamo qui e ci ritroviamo lunedì mattina alle 7:20.